e denari di Nicoletta Carbone e Deborah Rosciani. Bentornati a una nuova puntata di Cuore Denari. Oggi concludiamo la settimana e ci faremo anche gli auguri di buona Pasqua. Nel lunedì di Pasquetta saremo comunque con voi dalle 11 alle 12 con una puntata speciale, poi martedì di nuovo in diretta. Di fronte a noi giorni di vacanza importanti per rilassarsi, per stare con i nostri familiari, con gli amici, magari viaggiare o semplicemente regalarsi una gita fuori porta, ma anche, lo sappiamo, giorni utili per fare il punto sulla gestione di quelle pratiche un po' noiose, che però sono importanti per la gestione della nostra vita e che, presi da mille incombenze, finiamo spesso per rimandare all'infinito tra bollette, conti in banca, documenti per la dichiarazione dei redditi. C'è una questione che non abbiamo ancora toccato qua a Cuore Denari: il pagamento del canone RAI. Vi sono chiare le nuove modalità? E allora oggi, nella prima parte, facciamo un breve riepilogo e vi segnaliamo le scadenze. Ad esempio, se volete dichiarare di non avere un televisore e quindi non pagare il canone, vi resta poco più di un mese per farlo. 800 24 00 24, potete iniziare a prenotare tutte le vostre domande. Nella seconda parte del programma, a partire dalle 11, torna l'appuntamento con Salute Uomo, oggi dedicato a chi pratica o vorrebbe iniziare o riprendere a praticare l'attività sportiva. Il nostro numero verde a vostra disposizione se correte, andate in palestra, siete amanti delle due ruote, ma anche se giocate a calcetto, a golf, a tennis. I benefici dell'attività fisica regolare, specie se associate ad uno stile di vita sano, sono molteplici. I medici ce lo ricordano continuamente, con la speranza forse di convincerci a darci una mossa, a guadagnarci la salute di cuore, cervello, articolazioni. Benefici si misurano anche nella sfera sessuale, ma c'è anche l'altro lato della medaglia. E quindi, se la vostra passione vi è costata un legamento crociato, il tendine di Achille, un menisco, la cuffia dei rotatori, se vi ha lasciato anche in eredità un dolore nella zona pubica che si presenta puntualmente al risveglio o all'inizio dell'attività fisica, non gettate la spugna, chiamateci, due esperti pronti ad occuparsi del vostro caso. Il pagamento del canone RAI è un tema che divide per tanti motivi, ma come sapete bene, quello che cerchiamo di fare qui a Cuore Denari è mettere da parte polemiche e dibattiti che hanno le loro sedi più appropriate e provare a fare chiarezza sul da farsi, sugli adempimenti che toccano al cittadino, per come stanno le cose in questo momento. E su questo fronte ci sono novità che interessano tutti. Cambia infatti radicalmente da quest'anno la modalità di pagamento del canone. Scende un po' la cifra, ve la ricordate, da 113 a 100 euro, non bisognerà più pagarla con un apposito bollettino, ma sarà addebitata nella bolletta della luce. Detta così sembra molto semplice, ma sono anche molte le domande che sorgono. Ad esempio, se abbiamo più di un'utenza elettrica in famiglia, ad esempio per una seconda casa, che si fa? Si paga due volte? Se non abbiamo la televisione, ce lo troveremo ugualmente addebitato? Sono solo alcune delle domande. Le altre aggiungetele voi chiamando direttamente il nostro numero verde all'800 24 00 24. Oggi qui in studio con noi Saverio Fossati del Sole 24 Ore, che ha scritto spesso ultimamente su questo tema e a cui possiamo porre tutte le nostre domande. Grazie Saverio per essere qui. Buongiorno a tutti. Allora, iniziamo un po' con un riepilogo generale. Si paga dalla bolletta di luglio, giusto? E quanto pagheremo e poi come verranno distribuite le rate? Ricordiamo che nella maggior parte dei casi però l'elettricità si paga ogni due mesi. Sì, partiamo da quest'anno, il 2016, perché poi nell'anno prossimo le cose saranno lievemente diverse. E ma tornerai a raccontarci. Sì, naturalmente, tornerai. E, allora, quest'anno il pagamento è, diciamo, differito, il primo pagamento è differito a luglio, no? Perché? Beh, perché tutto il meccanismo deve mettersi in moto. Prima noi eravamo abituati a ricevere questo bollettino una volta all'anno, tipo fine anno, si pagava entro il 31 gennaio, morta lì. Sì. Invece quest'anno non si paga più col bollettino, cioè il bollettino sparisce, quindi quelli che erano intestatari del bollettino devono, per così dire, mettere da parte un attimo tutte le loro abitudini. Sì, resettare. Resettare e prepararsi a ricevere invece una bolletta elettrica più alta, cioè se ne dovrebbero accorgere anche poco, per così dire, perché la bolletta elettrica, che arriva normalmente ogni due mesi, ma qualche compagnia la fa ogni tre mesi, dovrebbe avere da gennaio a ottobre 10 rate da 10 euro, perché il canone sarà di 10 euro, di 100 euro in tutto, anziché 113. Il problema è che le bollette sono bimestrali, quindi in realtà quando sarà a regime il meccanismo sarà ricevere ogni 2 mesi, praticamente per 10 mesi, circa 13-14 euro in più nella bolletta, ma questo non ha una grande rilevanza. Il problema è quest'anno sì. Si paga a luglio, e a luglio si dovrebbero pagare almeno una settantina di euro, almeno stando così ai conti ufficiali che sono stati fatti, in più nella bolletta elettrica. Direttamente una bolletta elettrica, quindi non ci saranno avvisi, non ci sarà un bollettino a parte, non ci si accorge neanche, diciamo così, che c'è una cosa da pagare, se non che la bolletta è più sorprendentemente salata. Decisamente più salata, e va bene, questo nella normalità, però, perché ci sono tutti questi infiniti casi di persone che hanno due in famiglia, diciamo, uno pagava la bolletta elettrica, esatto, e l'altro pagava il canone, come a casa mia, oppure non hanno la televisore, o certo, non hanno un apparecchio atto a ricevere le trasmissioni televisive, cioè non hanno un computer col decoder. Ecco, infatti la domanda che abbiamo sentito tante volte in questi mesi, Saverio, è proprio questo: il canone lo paga solo chi ha la TV? Se abbiamo solo il computer o la radio, uno smartphone da cui andiamo sul sito della RAI, ad esempio, dobbiamo pagarlo lo stesso? No, la radio, il solo possesso della radio non implica nessun pagamento di nessun canone già da diversi anni. Sì. Questo è già chiarito. Tutti gli apparecchi che ricevono, che possono ricevere, perché hanno un apparato tecnologico particolare, che possono ricevere trasmissioni della RAI, televisive, scusi, devono invece pagare, il proprietario, insomma, deve invece pagare il canone RAI. Allora, c'è anche il passaggio delicato dell'autocertificazione, di cui tu hai scritto, di cui, no, possiamo dare anche delle indicazioni ai nostri ascoltatori per il modulo. Se io non ho la TV, devo autocertificarlo in modo che il canone non mi venga addebitato in bolletta. Sì, esattamente. È corretto? Cioè, devo dire, io la TV non ce l'ho. Esatto, questa è la novità di oggi, diciamo, perché il provvedimento dell'Agenzia delle Entrate, che stabiliva le modalità di questa autocertificazione, soprattutto il modello da compilare, sì, è uscito ieri. Non ne parliamo sul giornale di oggi per la semplicissima ragione che il giornale di oggi non c'è. Perché ieri c'era uno sciopero dei poligrafici, però sul sito del Sole 24 Ore trovate proprio nella home page un articolo nel quale viene dato atto di questo provvedimento che viene riassunto. Ci sono tutti i link non solo al testo del provvedimento ma anche al modello da compilare, che si può benissimo scaricare, stampare, compilare e inviare. Come lo si invia questo modello? Allora, lo si invia online attraverso i siti Entratello, Fisco Online delle Entrate, ma questo lo fa solo chi è già abilitato, peraltro sono alcuni milioni di contribuenti. Lo si dà a un intermediario abilitato, cioè il vostro commercialista, oppure chi non ce la fa lo manda per posta. Allora, se lo si può mandare via web, lo si manda entro il 10 maggio. Chi invece lo manda per posta deve fare entro il 30 aprile. Allora, vediamo se Saverio sei stato molto chiaro, perché c'è Stefano dalla provincia di Cremona. Buongiorno Stefano. Che ti dà un voto. Stefano, allora, la sua domanda è: cosa deve fare per non pagare il canone, no? Per chi non ha la televisione. Il collega Saverio Fossati ha già dato delle indicazioni molto precise, ma che cosa manca? Ha bisogno di un'indicazione in più, di una precisazione? Vuole portarci il suo caso? Sì, semplicemente io non ho televisore da ormai da più di un anno e voglio sapere cosa devo fare esattamente per evitare di pagare nella bolletta della luce questo canone. Quindi non ce l'ha da più di un anno, ma prima ce l'aveva? Sì, esatto. Ok, e poi ha deciso che voleva rompere un po' questa relazione con la TV. Saverio. Allora, se ce l'aveva prima vuol dire che, immagino, pagasse il canone e era abbonato Rai, le arrivava il bollettino. Esatto. Ecco, a questo punto non deve preoccuparsi, perché il bollettino è, per così dire, resettato, e cioè l'Agenzia delle Entrate dovrebbe comunicare al cosiddetto acquirente unico tutti i dati relativi a coloro che sono già abbonati. L'acquirente unico li trasmette alle compagnie elettriche, le compagnie elettriche mettono insieme questi dati e li infilano alla bolletta, perciò lei in questo momento rischia di ricevere la bolletta elettrica a luglio con dentro il canone RAI. Anche se era da un anno che non ha la TV, perché alla RAI questo non risulta, perché lei non ha mai fatto, immagino, quella complicatissima pratica di comunicazione di non possidenza della TV con richiesta di suggellamento del televisore. Che ha anche un nome bello difficile. Sì, il suggellamento era tra l'altro quella cosa buffissima che venivano in teoria in funzione della RAI con un sacco di juta e una catenina e un sigillo dello Stato per chiudere il televisore dentro il sacco di juta in modo che non potesse essere utilizzato. Però è elegante, no, la juta? È abbastanza bella, tanto allora, più che doveva rimanere in salotto. Allora, per adesso ci fermiamo perché dobbiamo dare le informazioni sul traffico. Molti italiani sono in viaggio per raggiungere magari parenti e località. Allora, li informiamo, ma noi ritorniamo subito dopo insieme con Saverio Fossati, pronti a rispondere a tutte le vostre domande e ai vostri dubbi. Insieme ancora a Stefano della provincia di Cremone, poi ci ha raggiunto anche Paolo da Roma. A tra poco. Cuore e denari. Eccoci, siamo tornati insieme, stiamo rispondendo a tutti i dubbi più frequenti sulle nuove modalità di pagamento del canone RAI in compagnia di Saverio Fossati del Sole 24 Ore. 800 24 00 24, vi è chiaro il nuovo funzionamento del canone in bolletta? Cosa non vi convince? Quali sono i vostri dubbi? Chiamateci, scriveteci anche al 349 238 6666. Saverio, allora eravamo rimasti a un punto cruciale. Sì, allora dicevamo, la persona in questione non ha più il televisore da un anno, però pagava regolarmente il canone, però non ha comunicato di non possedere più il televisore. Questa è quindi la sua occasione, farà questa dichiarazione online entro il 10 maggio o per posta entro il 30 aprile. La dichiarazione la troviamo anche sul nostro sito web, dove c'è l'articolo dedicato al problema e il link al modello da stampare. E in questa dichiarazione dichiarerà che in nessuna delle abitazioni per le quali il titolare di utenza elettrica è detenuto un apparecchio TV da parte di alcun componente della famiglia anagrafica. Questa dichiarazione verrà presa dall'entrata, verrà diciamo incrociata con i dati sulla residenza fiscale, la residenza anagrafica del contribuente, dati che l'Agenzia delle Entrate dovrà richiedere, quindi non sarà una cosa semplicissima, passerà dall'acquirente unico e finalmente alle compagnie elettriche, che dovrebbero quindi depennarlo dall'elenco diciamo di quelli che lo riceveranno in bolletta. Senti, speriamo. Ma questa certificazione basterà farla quest'anno una sola volta o bisognerà ripeterla ogni anno? Ogni anno. E quindi bisogna allenarsi. Sì. Andiamo a Paolo da Roma, poi Aldo da Milano. Paolo, buongiorno. Buongiorno a lei. Benvenuto. Beh, grazie. Sono breve e conciso. Allora, prima sento un eco comunque. Mi spiace, provi comunque. Noi la sentiamo bene. Paolo, vada. Ah, ok. Ecco. Allora, utenza Enel elettrica, prima casa intestata a me e a mia moglie. Pago il canone dall'inizio degli anni '80. Sì. Seconda casa di proprietà esclusiva di mia moglie, in un'altra regione. Sì. Utenza Enel intestata a mia moglie, proprietaria certo della casa. E adesso che si fa? Saverio Fossati, la cosa un po' si complica. Sì, un po' così, però sempre in questa famosa dichiarazione di cui parlavamo c'è un'altra casellina da sbarare per un altro caso, che mi sembra essere quello del contribuente. Di Paolo. Sì, in cui dice che il canone di abbonamento alla televisione per uso privato non deve essere addebitato in alcuna delle utenze elettriche intestate al sottoscritto, in quanto il canone è dovuto in relazione all'utenza elettrica intestata ad altro componente della stessa famiglia anagrafica. Famiglia anagrafica, brevemente, la famiglia anagrafica in questo caso non è solo marito, moglie, figli e eventuali altri iscritti, nonni, zii, ma anche quelle delle famiglie di fatto nei comuni dove è stato istituito l'apposito elenco. Quindi bisogna andare a cercare quella casellina. Esatto, è la terza casellina peraltro di questa dichiarazione, quindi se la persona ha la sua utenza elettrica ma non ha l'abbonamento, benissimo, allora compilerà questa dichiarazione e automaticamente gli altri membri della famiglia che hanno o utenza elettrica oppure hanno canoni RAI dovrebbero essere depennati, perché il riferimento è sempre la famiglia anagrafica. Sarà l'Agenzia delle Entrate che dovrà mettere insieme queste dichiarazioni con le sue risultanze anagrafiche e poi se la vedrà l'agenzia. Sì, se la vedrà l'agenzia, speriamo che non facciano, errori, perché poi la cosa passa dall'agenzia all'acquirente unico, dall'acquirente unico che dovrebbe a sua volta fare dei controlli, finalmente le compagnie elettriche che dovrebbero avere gli elenchi puliti. Allora, voglio leggerti un messaggio che è arrivato su WhatsApp da Alfredo da Firenze. Vorrebbe chiederti se io, Alfredo dice, se io prima pagavo il canone RAI e mia moglie è intestataria dell'utenza elettrica, che cosa accade ora? Riceverà l'addebito in bolletta solo mia moglie o devo fare qualche tipo di dichiarazione all'Agenzia delle Entrate? È un caso classico. questo, abbastanza frequente, ne parlavamo prima di andare in onda, Saverio. Sì, certamente. Allora, no, in teoria dovrebbe funzionare così, solamente chi ha l'utenza elettrica riceve l'addebito in bolletta. Quelli che non hanno nessuna utenza elettrica non dovrebbero ricevere più nulla, perché c'è come un reset generale di quelli che avevano il famoso bollettino. Questo l'ha spiegato molto chiaramente il ministero quando gli ho telefonato un po' di giorni fa. Ha detto che non devono, dico rarefero, non devono preoccuparsi, perché tutto è basato su chi ha l'utenza elettrica. Sono loro che devono semmai chiarire un po' la loro posizione nel caso che A, nella famiglia nessuno abbia un televisore, B, nel caso che la famiglia abbia più utenze elettriche, e quindi si rischia di arrivare, vedersi arrivare due quindi in aumenti. Questo caso Alfredo, che pagava il canone della TV, mentre l'utenza elettrica era registrata a nome della moglie, lui non deve fare nessun'altra certificazione, sta fermo, cosa fa, pagare tutto alla moglie? Dovrebbe tutto arrivare, a posto, esatto, così? A lui non dovrebbe arrivare più nulla, alla moglie dovrebbe invece arrivare l'aumento in bolletta. In quello di cui dell'importo che tu ci hai già anticipato. Dovrebbe succedere questo in automatico. Ecco, poi ovviamente se uno si vede arrivare naturalmente o nessun addebito di qua o zero o più due addebiti dall'altra parte, deve ovviamente poi fare una sua pratica delle nuove dichiarazioni, che però al momento non sono previste, proprio perché il meccanismo dovrebbe essere automatico. Le dichiarazioni servono a chi invece ha più utenze elettriche, per esempio, o più canoni. Adesso c'è un caso difficile, Saverio, almeno secondo me. Però sono sicura che tu avrai la risposta. Allora, ho sempre pagato canone intestato a me. L'utenza Enel è intestata al padrone di casa, che però pago io, ci scrive Margherita. Adesso che cosa faccio? Come esattamente il caso di prima, cioè uguale. Tutto dovrebbe continuare come prima, semplicemente a questo punto sarà interesse del padrone di casa chiedere la voltura dell'utenza elettrica, in modo che sia intestato a chi effettivamente, come dovrebbe essere, a chi effettivamente A, abita la casa, e B, ha il televisore. Ecco, però che non è dentro il sacco di Utah. No, però naturalmente se il padrone di casa e l'inquilino vogliono continuare così, liberissimi. L'inquilino non dovrebbe più ricevere il canone Rai e dovrebbe invece riceverlo, anche se c'è, ecco, invece c'è un problema, perché probabilmente il padrone di casa già paga il canone Rai, e quindi in questo caso e lo paga a questo punto sia per la sua casa sia per le case che ha affittato. Ecco, questo potrebbe essere il classico caso invece di evasione del canone Rai, per cui un unico utente elettrico che ha più case e più bollette elettriche paga però un solo canone, perché questo lo prevede la legge. Che poi queste utenze elettriche servano materialmente altre persone, beh, questo effettivamente non risulta né all'Agenzia delle Entrate, né risulta alle aziende elettriche, quindi qui sarà uno dei classici casi in cui scatteranno dei controlli. Allora, Saverio, grazie, continuate a scriverci se volete a Cuore Denari. Sul sito del Sole 24 Ore trovate il link per scaricare il modulo, quindi andate sull'home page del Sole 24 Ore. Ringrazio Saverio Fossati, auguri. Il segnale orario vi è offerto da Index, protegge e risana edifici in più di 100 paesi nel mondo. Indexpa.it. State ascoltando un programma offerto da Scegli Anima, miglior gestore fondi italiani big al premio alto rendimento 2015 del Sole 24 Ore. Cuore e denari. Sono tante diverse le ragioni che spingono un uomo a oltrepassare la linea della sedentarietà a diventare sportivo. C'è chi inizia per dovere, perché gliel'ha ordinato il medico, per necessità, per dimagrire, per compiacere gli amici, il partner, per mantenere un buon tono muscolare e, perché no, per permettersi qualche strappo in più. E c'è chi invece nasce con il gene dello sport. In quale di questi profili vi riconoscete o in quale riconoscete il vostro partner? Una cosa è certa, chi insiste, si appassiona, entra in quella piacevole condizione di dipendenza che porta a praticare con regolarità l'attività sportiva, ad allenarsi con costanza, sino ad accarezzare l'idea, perché no, di misurarsi con gare e competizione. 800240024, parliamo di uomini oggi a Cuore Denari in occasione dell'appuntamento con Salute Uomo, e qui in studio è tornato a trovarci il professor Andrea Salogno, urologo, andrologo presso il Dipartimento di Urologia dell'Università Vita Salute del San Raffaele di Milano e responsabile scientifico del progetto Salute Uomo di Cuore Denari. Ciao Andrea. Nicoletta, buongiorno, buongiorno a tutti. Allora, fa battere il cuore, mette il buon umore, è rilassante, stimolante, appagante, non annoia, rende, fa sentire migliore, anche più belli, mantiene giovani. Allora, parliamo non di un amante, di una storia d'amore. Talvolta lo è, peraltro, ma, per ecco, cui non, in effetti, non trascuriamolo, ecco, questo sembra, aspetto. E perché citavo l'amante? Perché l'attività sportiva, se praticata con regolarità e passione nei modi e nei tempi adeguati, produce effetti nella mente e nel corpo che a livello biochimico sembrano proprio sovrapponibili, con le dovute differenze, a quelli studiati dai ricercatori impegnati a scoprire la chimica dell'amore. Beh, è assolutamente è vero, ne abbiamo parlato tante volte, abbiamo tante volte sottolineato l'importanza dell'ormone per eccellenza al maschile, il testosterone, e tutti i dati sembrano confermare il fatto che il testosterone venga ad essere prodotto con una certa regolarità e nelle adeguate misure, con un'adeguata misura di attività sportiva regolare, il che vuol dire, per fare un gioco di parole, che tanto più si è regolari nell'attività sportiva, che non deve eccedere, ma che deve essere praticata con una certa costanza, tanto più è probabile che un'adeguata quantità di testosterone circoli nel nostro sangue. E come ben sappiamo, il testosterone è un po' panacea di tutti i mali, cioè va ad agire sull'aspetto del cuore, come sull'aspetto del muscolo, sull'aspetto del cervello, sull'aspetto del sonno, ha una poliedricità di azione che è indubbiamente estremamente importante. E noi aggiungiamo agli innumerevoli vantaggi che tu hai descritto uno che a Salute Uomo ci sta particolarmente a cuore: l'attività sportiva migliora anche la sessualità. Sì. Lo sport fa bene all'intesa sessuale, migliora le prestazioni, e questo benefico effetto è garantito, la cosa bella, sia agli sportivi che ai dilettanti. La ragione è semplice: tutto quello che fa bene al cuore ha delle ripercussioni positive su tutti i distretti dell'organismo. Per converso, abbiamo detto tante volte che la salute sessuale è la cartina di tornasole della salute del nostro cuore, tanto che abbiamo invitato i nostri ascoltatori a non tacere eventuali defiance, ma a parlarne con il proprio medico senza timore, perché assolutamente in sì. alcuni casi è proprio un colloquio che potrebbe salvare la vita, perché dai vostri sì. studi emerge che abbiamo detto tante volte, ma lo sottolineiamo ancora una volta, che talvolta si può considerare fortunato quell'uomo che abbia un problema banalmente di erezione. Dico banalmente nel senso che è il più semplice di tutti gli elementi legati alla sessualità di cui possiamo occuparci. Ma è proprio vero, il fatto di avere un problema spesso ci porta ad una consultazione medica, la più semplice, che ci permette però a cascata di arrivare dal cardiologo nel momento giusto, dal diabetologo nel momento giusto, da chi si occupa di funzionalità respiratoria nel momento giusto, e anche da chi si occupa di riabilitazione fisica piuttosto che di patologia muscolare al momento giusto. Allora, 800 24 00 24, oggi Salute Uomo vi invita a fare un bilancio per capire quanto l'attività sportiva che praticate, per dovere o per piacere, vi ha cambiato, quali vantaggi vi ha dato e quali rischi vi ha esposto, insomma soddisfatti o delusi. Non sarete rimborsati, ma aiutati a individuare la causa, le possibili soluzioni. Oggi possiamo contare sul dottor Stefano Respizzi, responsabile del Dipartimento di Riabilitazione e Recupero Funzionale di Humanitas, che finalmente lotta ancora ora con noi. Buongiorno dottor Respizzi, qua buongiorno in carne e ossa. Buongiorno Nicoletta, fa piacere essere qua con voi. Allora dottor Respizzi, tante volte abbiamo sentito e abbiamo paragonato l'attività fisica a un farmaco naturale in grado di mantenere e promuovere la salute e il benessere, ma come tutti i farmaci esiste un limite di sicurezza nelle dosi, oltre il quale gli effetti avversi possono superare i benefici. Questo è un rischio, chi esagera potrebbe trovare a farsi i conti con una serie di problemi più o meno spiacevoli. Vogliamo ricordarli, dottor Respizzi? Certamente, noi siamo abituati a una vita molto sedentaria mediamente, per cui riprendere a fare attività può mettere sotto stress molte articolazioni, molti problemi, molti distretti del nostro corpo. In particolare, se una cosa più, la cosa più semplice, quando una persona ricomincia a correre, possiamo occuparci di problematiche delle caviglie, delle ginocchia, delle anche, della schiena, che spesso viene sollecitata in maniera esagerata, ad esempio se si corre sull'asfalto, e quindi è tutto un sistema che viene rimesso in movimento e che non è abituato a farlo. La sedentarietà riduce la capacità muscolare, il tono muscolare, ma anche lo spessore delle cartilagini, la resistenza dei tendini. Quindi si tratta di rimettere in moto qualcosa che è un po' arrugginito, certo, dai mesi invernali, dal letargo invernale. A volte però si esagera, i rischi poi, no? Penso alle persone, agli uomini che si fanno prendere dalla passione per praticare un'attività sportiva. È sempre il testosterone di prima che li scatena. Che li scatena, però poi spagano i conti. Esatto. A volte il danno deriva non tanto dalla quantità dell'esercizio, quindi dagli allenamenti, ma dal gesto, cioè da un'attività fisica praticata in modo non corretto. Infatti questo è il problema del dilettante, dell'amatore, no? Che è convinto di essere Cristiano Ronaldo, va a giocare con gli amici, non è Cristiano Ronaldo evidentemente, quindi calcia male il pallone o corre male, e questo sovraccarica di alcuni distretti che sono quelli che citavamo prima. Quindi possono esserci problemi a livello del pube, la famosa pubalgia, che di cui parleremo. Le ginocchia in particolare sono quelle che cigolano di più di solito, le anche, la schiena, appunto, tutte le strutture che vengono sollecitate da dei gesti atletici non corretti. Allora, però Andrea, corre rischi seri anche lo sportivo da divano, perché l'inattività attenta alla salute maschile e femminile, ma oggi noi ci occupiamo di quella maschile, al pari del fumo e dell'obesità. È assolutamente vero. Se dovessimo fare un elenco delle problematiche che banalmente consideriamo fattore di rischio per patologie cardiovascolari, patologie della prostata, a noi maschietti la prostata piace molto e talvolta è anche un po' il nostro incubo, un po' il vostro chiodo fisso, esatto. E poi per l'attività sessuale, tra tutti i vari fattori di rischio troviamo il fumo, l'obesità, le malattie di base quali il diabete, ma l'inattività fisica o un'attività fisica non regolare. Qui è molto difficile disquisire sul fatto che serva un'attività fisica aerobica o anaerobica. Questo poi magari il dottor Spizzi ci aiuterà meglio a capirlo, ma da un punto di vista pratico il fare le cose nel giusto modo e con le giuste misure, mi piace oggi parlare di giuste misure, ha certamente un grande valore, perché tende a prevenire danni, e lo fa quasi in modo primario, cioè prima ancora che i danni siano anche solo ipotizzabili, sia della sfera cardiovascolare che della sfera metabolica, che della sfera prostatica, che della sfera sessuale. Per cui è certo vero che un'attività sportiva regolare e non un'attività sempre da divano è fondamentale. Al pari, giustamente il dottor Spizzi l'ha appena citato, non bisogna sostanzialmente cedere al contrario, cioè aver fatto un'attività da divano tutto l'inverno o gran parte della propria vita. Improvvisamente sentirsi Ronaldo. Esattamente, questo diventa deleterio. Allora, intanto siate pronti a dirci e a raccontarci che attività praticate, perché l'avete scelta e che cambiamenti notati. È scesa la pancetta, si sono irrobustiti i bicipiti, vi è tornato il buon umore, vi sembra di avere una migliore gestione dello stress, o invece vi manca il fiato, vi cede il ginocchio, vi ha messo KO una fastidiosa pubalgia? Parliamone. E Claudio rompe il ghiaccio, ci chiama da Milano al nostro numero verde. Buongiorno Claudio, benvenuto. Ah, mamma mia, le solite cose. Praticamente io avevo deciso di far andare giù la mia panzetta e allora mi sono messo dietro così a correre. Vabbè, a parte che io comunque corro sempre, non ho problemi, ma ho esagerato. E mentre appunto facevo jogging in palestra sul Tapirulan, sentivo qualche scricchiolio. Però ho detto, mi viene da ridere, ma poi ha pianto Claudio. Devo continuare. Resisto, sono un maschio. Ecco, stoicamente. Ecco, questa cosa del resisto, sono un maschio, è proprio vera. E adesso? Vabbè. E adesso praticamente mi sono ritrovato con un nodulo dietro la parte posteriore del ginocchio, che mi fa male. Riesco comunque a camminare, vado in bicicletta e tutto, però ho detto, ma io questa cosa qua me la terrò per sempre. Sono due settimane oggettivamente, magari sparisce. Dottor Respizzi, allora Claudio, e intanto lo ringraziamo, è simpatico, si prende anche un po' in giro, è un po' un profilo che lei conosce bene, no? l'uomo che decide di ritornare giovane improvvisamente e che vuole, che resiste naturalmente stoicamente sul treadmill sudato in maniera incredibile, sì, come quello, un cinghiale, quello che segnala è probabilmente la presenza di una piccola cisti dentro nel ginocchio che si è infiammata proprio per un sovraccarico. Ovviamente bisognerebbe visitare la persona eccetera eccetera, però dai sintomi che mi descrive, la presenza di una tumefazione posteriore nel ginocchio di solito è questa famosa cisti di Becker, detta così perché il dottor Becker è quello che l'ha descritta. Non è una cosa grave, di solito è una cosa appunto dovuta a un sovraccarico, che poi riducendosi la dimensione della cisti scompare anche questa protuberanza che l'ascoltatore ci diceva. Allora Pietro ci scrive: mai visto gli animali fare sport? Basta il movimento quotidiano. Ma gli animali fanno sport tutto il giorno, per la verità. Cioè si muovono, tranne siamo noi che siamo quelli sedentari. Da divano. Siamo noi che siamo sedentari. Allora, perché ci sono, spesso usiamo attività fisica, esercizio fisico, sport come sinonimi, dottor Respizzi. In realtà ci sono delle differenze? Totalmente. Lo sport agonistico è tendenzialmente un'attività che provoca danni, perché è portato sempre all'estremo. Quindi quando vediamo le attività sportive degli agonisti dobbiamo sempre ricordarci che questi si fanno male ed è previsto che si facciano male all'interno delle loro attività. Mentre invece l'attività motoria, l'esercizio fisico controllato è qualcosa di terapeutico che noi possiamo considerare un vero e proprio farmaco, un farmaco naturale. Quindi prima si parlava di attività aerobica, attività anaerobica. Nel caso specifico, quello che è vincente per controllare le malattie che abbiamo prima citato è l'attività di tipo aerobico, quindi non un'attività di tipo estremo, ma un'attività controllata, costante, giustamente come diceva prima Salonia, che uno fa quotidianamente e che prevede un miglioramento delle capacità metaboliche generali dell'organismo. Quindi non è cercare di andare a inventare, avere un muscolo clamoroso, ma avere un apparato cardiovascolare e respiratorio che funzionino in maniera corretta e ben ossigenati. Dottor Respizzi, non esiste l'uomo perfetto e non esiste l'attività sportiva perfetta che si mantiene tale nel tempo, perché con gli anni il rapporto può cambiare, complice una serie di fattori. Allora lei ci aiuterà a individuare i segnali sospetti che potrebbero far capire ai nostri ascoltatori che qualcosa sta andando in crisi, si sta alterando a livello muscolare, articolare, cardiocircolatorio nella loro pratica sportiva. A quali sono i segnali a cui bisogna fare attenzione? E io direi che il dolore è un sintomo positivo, va vissuto come un sintomo positivo, è la spia del cruscotto che ci dice che c'è qualcosa che non va. Facciamo un esempio: se una persona comincia a correre e ha un dolore al ginocchio, insorge un dolore al ginocchio, è indice del fatto che in questo ginocchio non è perfetto dal punto di vista appunto della sua salute. E quando una persona è sedentaria e da divano, come dicevamo prima, si riduce la quantità di acido ialuronico, ad esempio, che è all'interno del liquido sinoviale, all'interno del ginocchio, si riduce la dimensione delle cartilagini e quindi, ad esempio, è molto utile in questi casi, in questi doloretti che si sentono, in questi scricchioli, introdurre nell'articolazione dell'acido ialuronico, la pratica di somministrazione di acido dentro nel ginocchio, l'infiltrazione. Olia, praticamente olia. Le articolazioni. Non solo, ormai si è capito che l'acido ialuronico ha proprio un effetto anche di tipo biologico, vero e proprio, perché rigenera anche un po' i tessuti. Quindi da un lato è un effetto lubrificante, ma ha un effetto anche di rigenerazione dei tessuti. Quindi è una pratica che secondo me va consigliata quando si sentono questi dolorini. Mi viene una domanda da fare al dottor Respizzi. Immaginiamoci però che una certa quota dei nostri uomini vadano regolarmente a fare attività fisica. Questo è ciò che oggi sempre più spesso dai 40 anni in avanti io sento dai pazienti in ambulatorio, e che ad un certo punto della loro attività fisica prestata regolarmente, anche con una certa qualcura, cominciano a insorgere dei problemi alla deambulazione, piuttosto che durante la corsa, piuttosto che a livello delle anche. In quel caso esiste un buon mezzo dove decidere basta, io non posso più praticare sport, o bisogna sostanzialmente farsi seguire da qualcuno? Io ho in mente un personal trainer, ad esempio, che possa aiutarci a meglio riprendere l'attività e con tutto quello che in termini di ricaduta positiva questo può avere. Allora, qui si presentano due quadri. Da un lato la scelta del personal trainer è molto utile se voglio migliorare il gesto e quindi evitare le patologie cosiddette da sovraccarico. Se invece, altro tema, l'articolazione ha già dei difetti, c'è già qualcosa, c'è un'iniziale artrosi che negli uomini cinquantenni è molto comune. Più che nelle donne o? No. No, uguale. Siamo, in questo caso è ben distribuita. Va bene. In questo caso invece si parla di un quadro patologico, quindi probabilmente bisogna cambiare attività sportiva. Quindi, come dicevo prima, andare a correre ad esempio sull'asfalto, che è una cosa che a Milano è quasi indispensabile, non è la cosa ideale, perché gli animali corrono sulla terra, ad esempio, no? Gli uomini correvano sulla terra, non sull'asfalto. A proposito di corsa, Alessandro da Livorno ci scrive: se mi dovessi fermare ad ogni dolorino, lei dottor Respizzi ha detto il primo segnale il dolore che sento al ginocchio o al piede, non praticherei mai la corsa. Rifletta, Alessandro da Livorno. 800 24 00 24. Andrea, hai parlato di sportivi, di palestre, di persone che hanno proprio la passione, amano allenarsi. Parleremo anche di sostanze che sono derivati sintetici del testosterone, corretto? Che è questo ormone maschile prodotto naturalmente dall'organismo, che vengono utilizzate proprio per aumentare le performance. Sono gli steroidi anabolizzanti. Vogliamo parlarne, perché se ne fate uso dovete essere informati di alcune possibili sequele molto molto severe. Quindi 800 24 00 24, diamo subito la parola a Luca che ci chiama da Vicenza, prima di fare una pausa. Luca, buongiorno. Sì, salve, buongiorno a voi. Buongiorno. Le spiego, io ho sempre fatto fino a un mese fa, due volte a settimana piscina, circa 80 vasche la volta. Non ho capito quante vasche, scusa. 80. Beh, però. 80, anche 100. Anche 100. Dopo, punto in bianco, mi sono bloccato schiena, nervo sciatico, una dorsalgia tremenda. Mi è stato diagnosticato perché circa un mese e mezzo fa ho fatto una distorsione a una caviglia. È possibile questo che abbia comportato tutto questo mio malessere? Che tutto questo blocco, cioè si blocca la caviglia e si sgretola tutto. Non curata, caviglia non curata, l'ho sempre tralasciata, sentivo sempre questo dolorino però. Perché Luca, la caviglia è una delle articolazioni più trascurate, tanto no, si dice la storta alla caviglia, su che le niente, poi invece, però forse però non è responsabile di questo blocco. No, direi proprio di no, nel nuoto la caviglia è sottoposta ovviamente a sollecitazioni minori rispetto alla corsa, si è in orizzontale, quindi è una condizione completamente diversa rispetto a quello abituale della nostra posizione verticale. Io non vedo come possa esserci una correlazione tra una pregressa distorsione di caviglia e un insorgere del mal di schiena. Mal di schiena arriva, succede, e quindi dobbiamo farne conto, curarlo e capire cosa c'è, però non vedrei una correlazione. Allora, parleremo di allenamento aerobico, allenamento anaerobico, cerchiamo di capire anche, Andrea, quale dei due tipi di attività è più indicata a svolgere un ruolo protettivo e preventivo anche della salute del maschile, maschio, dell'apparato urogenitale. Certo. Parleremo anche di uno studio della Società Italiana di Andrologia che ha proprio individuato un'attività sportiva che, praticata secondo tempi precisi e con cadenza misurata, migliorerebbe le performance a letto, diminuendo le disfunzioni erettili e l'eiaculazione precoce. Ne parleremo subito dopo la pausa. Intanto iniziate a pensare, secondo voi, quale può essere? Andiamo. Dal 31 marzo Renzo Martinelli è al cinema con il suo nuovo film, Ustica, una verità inconfessabile. Vedi quella sagoma scura laggiù? Quella è Ustica. Il 27 giugno 1980 il volo Itavia Bologna-Palermo precipita in mare al largo di Ustica. 81 vittime. Una tragedia, sapevo. Per più di 30 anni ipotesi e smentite sulla verità, tra indagini, reticenze e false testimonianze. Su Radio 24 il film diventa un radiodramma. Il dolore di una madre, l'indagine di una giornalista, la ricostruzione di una verità. Questa è la prova che c'è stata una collisione in volo. Ustica, una verità inconfessabile, di Renzo Martinelli. Lunedì 28 marzo alle 15 e alle 21.30 su Radio 24. Da giovedì 31 marzo al cinema. Info su radio24.it. State ascoltando un programma offerto da Scegli Anima, miglior gestore fondi italiani Big al premio alto rendimento 2015 del Sole 24 Ore. Cuore e denari. Pedalare senza fretta la domenica mattina. Eccoci qua, di nuovo insieme, siamo tornati in questa puntata di Salute Uomo. Naturalmente parliamo di uomini e parliamo di uomini e attività sportiva. Se siete sportivi chiamateci, ma l'invito è naturalmente rivolto anche a chi sta accarezzando l'idea di rimettersi in pista, in campo, sul campetto o sul sellino. 800 24 00 24. Ci accompagnano il professor Andrea Saloni e il dottor Stefano Respizzi. Allora, prima della pausa avevamo anticipato che una società scientifica ha proprio individuato l'attività sportiva migliore per un uomo, perché ha tantissimi vantaggi nel regalare una salute a livello generale, ma anche a migliorare la salute sessuale. La sdoganiamo, ci sono proprio le dosi, no? Ci sono le dosi. Mi piace partire prima di tutto da questa considerazione, che è una società scientifica alla quale io partecipo, della quale faccio parte, che è la Società Italiana di Andrologia, che è la società degli andrologi in Italia, cioè di quelli che, specialisti, si occupano di problematiche dell'uomo a tutto tondo, dalla fertilità fino alla prostata. Da un punto di vista pratico, questa ricerca che gli andrologi della SIA, questo è l'acronimo che fa riferimento alla Società degli Andrologi, hanno fatto, riguarda lo sport per definizione in Italia, il calcio. E è molto curiosa questa cosa, perché i pazienti che vengono in ambulatorio molto spesso raccontano della partita al calcetto tipicamente del lunedì sera. La ricerca fa riferimento invece a delle dosi, come nella ricetta, nella migliore delle ricette della nonna, quindi 45 minuti di calcio due volte alla settimana migliorano sostanzialmente la qualità dell'erezione e riducono il rischio di eiaculazione precoce. Lo studio fa riferimento prevalentemente a maschietti giovani tra i 18 e i 20 anni, ma sembra che anche nei soggetti sopra i 65 anni ci sia la possibilità di un miglioramento delle performance cardiorespiratorie in un uomo su 5. Questo è estremamente importante, perché in realtà, se dovessimo dare un giudizio sulla qualità dello sport calcio in generale, ci sono almeno due elementi da tenere in considerazione. Primo, la cosiddetta componente aerobica, di cui prima il dottore Spizzi ha ben sottolineato l'importanza, e in secondo luogo lo sport di gruppo, che al pari migliora le performance al maschile. Su questo non ci sono dubbi. Purtroppo non è sempre vero, ci sono anche delle performance al maschile che nello sport di gruppo non vengono perfettamente vagliate, quali ad esempio la pazienza e il rispetto reciproco, ma è comunque vero che questo abbia la sua importanza. Se dobbiamo confrontarli ad esempio con gli sport da sellino, come prima dicevi, io tenderei a non demonizzare lo sport da sellino, cioè la bicicletta, che è molto importante per i maschi italiani. Ci sono tantissimi ciclisti amatori. Però non siete tutti d'accordo. Non siamo tutti d'accordo. Cioè, perché esempio nella descrizione di questo studio, insomma, si legge: il calcio è più benefico a confronto con altri sport, soprattutto a quelli potenzialmente più pericolosi come il ciclismo, le arti marziali o la boxe. Vabbè, tantissimi giovani si sono avvicinati alla boxe. Ci sono tantissime palestre, ad esempio a Milano, dove io abito, che si sono dedicate con corsi estremamente importanti di potenziamento muscolare, ma anche di attività aerobica alla box. Io non sono completamente d'accordo sull'aspetto del sellino da bicicletta. Partiamo dall'idea che sono almeno 20 anni che si studiano gli effetti deleteri della bicicletta sull'attività sessuale e ci sono dei dati a favore di questo rischio per pressione, livello nervoso, soprattutto in corrispondenza di quei due punti che si chiamano tuberosità ischiatiche. Ma è anche vero che la più parte delle ditte ormai mette a disposizione, sviluppato dei sellini che sono assolutamente confortevoli. Sì, vanno in carrozza, dai. Vanno in carrozza. Ma dottor Respizzi, secondo lei è della stessa idea oppure... Lei non la consiglia? No, torniamo al calcetto, perché è una miniera, è un attimo farsi male. Per cui già questa iniziativa della SIA a lei piace molto come fisiatra, vero? Perché invece di farsi male una volta alla settimana, lo fanno due volte alla settimana e lì gli ambulatori a lei. Poi bisogna capire anche le signore cosa dicono, le signore mogli. Alcune saranno felici. Non giocheranno mica tutti a calcetto, no? C'è un cambio. Va bene, Per quanto riguarda il ciclismo, io sono d'accordo d'accordo con Salonia perché l'evoluzione del sellino è stata molto forte in questi anni e quindi io il consiglio che do alle persone è di affidarsi a un venditore di biciclette che sia in grado di trovare la sella giusta. Quindi se si sta attenti e si sceglie il prodotto più corretto, secondo me i rischi non sono così elevati, vista anche la numerosità delle persone che vanno in bici. Esatto. In Italia è una quantità enorme importante. Di persone che si divertono a fare questa attività e quindi sarebbe veramente un peccato inibirlo. Poi è chiaro che se una persona ha un problema importante di ipertrofia prostatica, certo, ci sono delle controindicazioni. Queste sono controindicazioni diverse. Allora, un'amica ci scrive: ecco perché mia cognata si lamenta sempre. Mio fratello, sessantenne, gioca tanto a pallone. Perché c'è anche quel problema lì, Allora, 800 24 00 24, voglio leggere un messaggio di Fabio su Facebook e dice. E ci scrive: a chi non piace correre, non ha tempo e soldi per andare in palestra, può fare bene almeno camminare più o meno velocemente per un'oretta serale ascoltando in podcast Radio 24. Ci piace anche una bella camminata. La camminata veloce è molto utile. Vengo sempre consigliati, anche facilmente verificabili, i famosi 10.000 passi al giorno. Esatto. Che sono 5-6 km a un buon passo, diciamo. È una cosa che si può fare con un qualunque smartphone che rileva il numero di passi, un contapassi banalissimo. Sì, a farli tutti di fila non è poi una passeggiata, no. Perché ci vuole... Abbiamo 24 ore. Sì, ok. Quindi uno può fare parte al mattino, parte al pomeriggio. A singhiozzo. Sì, sai Nicoletta che c'è anche, scusatemi, c'è un famoso andrologo italiano, di cui adesso non farò il nome, che è passato dal pesare molto al pesare molto meno, con un controllo rigoroso di quanto mangiasse e facendo i famosi 10.000 passi al giorno. Sicuramente tu lo conosci ed è molto simpatico, molto telegenico peraltro. Allora, per la disfunzione erettile, Andrea... Sì. Bisogna rivolgersi ad un sessuologo o all'andrologo? Grazie di cuore, ci scrive un ascoltatore che di Salute Uomo non ci ha mai ascoltato e che invitiamo a riascoltarsi le puntate e a leggersi gli editoriali di Andrea Salonia. Ecco, questo è un invito che vi voglio fare, è una cosa un po' tra parentesi, perché ci sono tanti medici che scrivono bene, no? L'amico Andrea Vitali è un medico e un grandissimo scrittore. No. Io vorrei che voi leggeste gli editoriali di Andrea Salonia e poi mi raccontaste che cosa ne pensate. Io li adoro, Andrea. Adesso piango. Dai. Va bene. Dunque, prima corro. Esiste una grande differenza tra il sessuologo e l'andrologo. Di base il sessuologo è di estrazione psicologica, anche se oggi esistono quelli che si chiamano sessuologi di estrazione medica o sessuologi clinici o sessuologi medici, cioè che hanno un background da medico, quindi sono laureati in medicina e chirurgia e hanno poi sviluppato il proprio expertise in ambito di psicologia della sessualità. In entrambi i casi, per il paziente o per l'uomo a cui dobbiamo riferirci, fondamentalmente una figura che abbia competenze in materia è importante che venga valutata. Il fai da sé o il far da sé in ambito di medicina della sessualità, in ambito di disfunzione erettile è veramente pericoloso. È sempre più pericoloso, soprattutto se lo consideriamo alla luce di quanto abbiamo detto all'inizio di puntata, cioè la possibilità che la disfunzione erettile, l'abbiamo detto tantissime volte, sia un po' campanello d'allarme dello stato di salute. Talvolta il curare bene quell'aspetto possa essere un salvavita. Allora, continuate a fare il vostro bilancio all'800 24 00 24. Che cosa vi ha dato, che cosa vi ha tolto, che cosa ha aggiunto l'attività sportiva, se la praticate, come, perché e quando. Leonardo, buongiorno da Lecce. Buongiorno. Buongiorno. Sono brevissimo. Io ho quasi 39 anni. Non e sono quello mai è un problema? Stato... Sì, è vero. Non sono mai stato particolarmente appassionato allo sport. Da settembre dello scorso anno, due volte a settimana vado in piscina. Mi piace molto fare nuoto, però regolarmente i crampi ai piedi, di sicuro a fine allenamento, ma molto molto spesso anche durante l'allenamento. L'istruttore mi suggeriva di mangiare più banane, l'ho fatto pure, ritengo che l'alimentazione mia non sia comunque un'alimentazione sia abbastanza equilibrata, ma nonostante tutto, ripeto, è una costante il crampo ai piedi, solo ai piedi. Si stanno trasformando in pinne, dottor Respizzi? C'è una lenta trasformazione un po' dolorosa? Potrebbe essere un ritorno indietro. Ma di solito quando ci sono i crampi è perché c'è un problema di erorazione della muscolatura non corretta o di accumulo di acido lattico, e quindi ci sono molti motivi che possono scatenare questa cosa. Un problema potrebbe essere anche di tipo circolatorio periferico, e quindi consiglierei all'ascoltatore di approfondire un attimo queste tematiche, cioè capire se ha un difetto di perfusione dei muscoli del piede, perché mi sembra abbastanza curioso che accada una cosa così nuotando. Cioè cosa deve fare? Quindi è un problema più di tipo angiologico, secondo me, potrebbe essere un problema di tipo angiologico. E le banane? Quelle portano potassio, va bene, però nella nostra società è difficile che qualcuno abbia un'alimentazione così alterata da avere delle carenze importanti. Noi mangiamo in maniera variata, a meno che uno non abbia delle fisse particolari, di solito introduciamo moltissimi alimenti e anche tutti quelli necessari. Quindi un apporto di integratori si usa, va bene, ma se permane questa sintomatologia, magari c'è qualcosa di vascolare di andare ad indagare. Allora ci fermiamo per le informazioni sul traffico all'800240024. Subito dopo parleremo di steroidi anabolizzanti. Ci sono tanti sportivi che li utilizzano non solo per migliorare le performance, ma anche per mantenere un po' il tono muscolare, per asciugarsi, vero Andrea? Soprattutto per quello. Ecco, e quindi per avere proprio il muscolo che guizza. Se ne utilizzate, mettetevi in contatto con noi oppure ascoltateci, ma se volete soprattutto raccontarci la vostra esperienza può essere utile a chi ci sta ascoltando. 800 24 00 24, vi aspetto. Subito dopo torniamo insieme. Cuore e denari. Chi è il tuo uomo? Cioè il tuo uomo perfetto? È intelligente, disponibile, divertente. È romantico e coraggioso. Inoltre ha un bel corpo, però non corre a guardarsi allo specchio ogni 2 minuti. È gentile, è sensibile, è dolce. Se vi siete riconosciuti, 800 24 00 24. Beh certo, noi. Io ne ho già due in studio, tre, perché c'è anche Carmelo Lauricella e c'è Marco Lombardo. Insieme a Laura Vanossi siamo molto fortunate. Deborah si sta perdendo molto, ma comunque se vi siete riconosciuti in quel profilo, chiamateci, scriveteci, mandateci le vostre foto di fisici scolpiti sulle nostre pagine. Ma torniamo in noi, Andrea, e parliamo di steroidi anabolizzanti. Sono derivati sintetici del testosterone, corretto? È corretto, non tutti, ce ne sono molti che non sono derivati sintetici del testosterone, ma che vengono utilizzati purtroppo comunemente anche nella pratica clinica. Nella maggior parte dei casi, quando ci si riferisce a steroidi anabolizzanti, ci si riferisce a sostanze che vengono utilizzate con lo scopo di incrementare le prestazioni fisiche, soprattutto la massa muscolare, tipicamente per quello che è proprio il rafforzamento e, se vogliamo dire, la maggior definizione del muscolo, e purtroppo causano danni spesso molto difficili da riparare. Dopo quanto tempo di utilizzo? Ci sono degli uomini dei profili di rischio maggiori? Allora, sono... partiamo da due considerazioni. Quale tipo di danni non possono portare? Cioè, non se ne parla. Sì. Ma come non si parla di moltissimi di quei prodotti banalmente acquistabili via internet che purtroppo causano danni. Spesso si parla di doping, e si parla di doping pensando che il doping equivalga a prendere delle sostanze magiche. In realtà ce ne sono moltissime distribuite via internet che, utilizzate nel modo scorretto per tempi scorretti, diventano deleteri. Come ad esempio? Ci sono banalmente un farmaco che oggi è disponibile, che si chiama clomifene. È un farmaco utilizzato moltissimo come antitumorale della mammella, come promotore della capacità riproduttiva, che utilizzato male, che induce un incremento dei livelli di testosterone laddove non ce ne sia bisogno. Questo può essere di per sé deleterio, ed è un farmaco banalissimo che può essere utilizzato e acquistato in farmacia. Ma se partiamo dall'idea di quelli che invece sono gli steroidi anabolizzanti più classici, bene, in questo senso vengono utilizzati per via intramuscolare e vengono utilizzati con lo scopo di incrementare la massa muscolare. Quali sono i danni possibili? Ecco. Ci sono danni a livello epatico, cioè il fegato ne soffre in modo enorme. Ma se torniamo all'ambito più strettamente andrologico, non è infrequente che i ragazzi arrivino, avendone fatto uso per lungo tempo, con completa sterilità, perché questi vanno ad alterare completamente l'asse ormonale che regola la capacità del nostro testicolo e la sua capacità di produrre spermatozoi, da un lato, e dall'altro di produrre il testosterone endogeno, cioè quello che ci fa bene. Questo rende ragione del fatto che molto spesso i ragazzi arrivino con zero spermatozoi, cioè completa assenza, condizione che viene chiamata scientificamente azoospermia, un'alterazione completa di quelli che si chiamano ormoni gonadotropinici, cioè quegli ormoni prodotti in quella ghiandolina che chiamiamo adenoipofisi, vengono prodotti usualmente con lo scopo di stimolare il testicolo a produrre spermatozoi e che purtroppo non sono quantitativamente adeguati e rimangono in questo modo per molto tempo, talvolta addirittura anni. Allora, penso che ci siano tante buone ragioni per smettere di prenderli o anche per mettersi non per non iniziare, soprattutto, e se comunque avete dei dubbi, delle domande, eccetera, continuate a scriverci. Dottor Respizzi, voleva aggiungere che? Sì, volevo aggiungere da medico dello sport anche quale sono, certo, che è doping, quindi è proibito. Partiamo già, almeno mettiamo almeno un semaforo rosso, essendo doping è proibito l'utilizzo. È ancora più stupido se uno lo utilizza per fare sport a livello amatoriale, per essere un pallone, certo, gonfiato, come si dice quando uno ha dei muscoli belli grossi, finti, che poi si vede che sono finti evidentemente. Nel caso dell'apparato locomotore c'è un ulteriore rischio, che è questo: il testosterone fanno aumentare, gli anabolizzanti fanno aumentare la massa muscolare, ma non il tendine. Per cui questi soggetti rischiano di rompersi il tendine, perché certo, il muscolo perché è molto è più forte, ma il tendine non è adeguato. Non è adeguato. Quindi capita abbastanza frequentemente che queste persone poi si rompano dei tendini, quindi voglio dire, è un altro danno assolutamente idiota da andare ad affrontare. Allora abbiamo Giancarlo che ci chiama da Torino al nostro numero verde. Buongiorno Giancarlo, benvenuto. Buongiorno. Buongiorno a lei. Allora, belle signore, ho 63 anni, vado subito al dunque. Ho 63 anni, sino a 40 anni ho giocato a calcio. Poi ho fatto l'allenatore per una quindicina d'anni. Negli ultimi anni mi sono dato la bicicletta. Sì. Posso fare il rapporto tra i due o tre sport che faccio, perché faccio anche un po' di nuoto, ma sì, ecco, ci dia la sua ricetta, il suo commento, la sua raccomandazione. Allora, la mia raccomandazione è questa: il calcio, allora, se si fa calcio e bicicletta assieme bisogna fare molta attenzione, perché i muscoli non sono quelli, cioè l'utilizzo dei muscoli non sono uguali, quindi si rischia di restare bloccati o per uno o per l'altro. Per quanto riguarda la bicicletta, io sono uno che non fa tantissimi chilometri. Però ha dei vantaggi, Giancarlo. Ha dei vantaggi veramente mentali, nel senso che io vado sempre, quasi sempre da solo in bicicletta. E quindi è una sfida a se stessi. Però Giancarlo, allora io le ringrazio per la sua testimonianza. Io le ricordo però che lo studio della SIA ricorda, no, proprio 45 minuti di calcio due volte alla settimana, sì, aiuta. Quindi ci ripensi anche un po' lei. Grazie Giancarlo, buonissima giornata e tanti auguri. Giancarlo allena, combinare due sport, dottor Respizzi, sicuramente aiuta. Perché aiuta bilancia se, aiuta il se lavoro è un'attività muscolare ludico-sportiva. Nello sport la specificità del gesto è indispensabile, quindi se uno lo fa a livello abbastanza impegnativo, agonistico, è inutile cambiare sport, certo, deve fare quello. Mentre invece se lo fai per attività ludica, allora si passa dalla bici al nuoto, al gioco del calcio con gli amici, va bene. Insomma, perché una generale risposta secca, Carlo, 50 anni, anche gli amminoacidi ramificati fanno male, sì o no? No, no, non come i nostri anabolizzanti. Su questo torneremo. Intanto auguri a tutti. Torniamo lunedì con una puntata speciale. Grazie al dottor Respizzi. Grazie ad Andrea Salogna. Nicoletta, auguri a te, auguri a tutti. Auguri, salute uomo, torna il prossimo mese, ma noi torniamo lunedì. Buonissima giornata.